E buonasera a tutti, siete all'ascolto di Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Buonasera da me Rosanna e da Anna Maria. Buonasera a tutti. Ciao Anna Maria. Allora, stasera parleremo nella trasmissione dei colori dell'anima del microcredito. Allora, diciamo che questo termine microcredito è diventato quasi un po' inflazionato, però ha delle origini ben stabili, delle radici, diciamo, molto precise negli anni 70, ma lo vedremo man mano nel corso della trasmissione. Allora, perché parliamo di questo argomento? Perché è proprio di questi ultimi giorni una petizione lanciata dal sito web avaz.org, Avaz scritto con due A, che si chiama Salviamo la migliore banca del mondo. E si tratta infatti, perché questa petizione? Perché c'è un tentativo di mettere fine alla Grameen Bank, che ha dato la possibilità a milioni di donne di uscire dalla povertà, garantendo loro piccoli prestiti per comprare animali o attrezzature per cominciare a guadagnare denaro. Il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha infatti licenziato il suo fondatore e premio Nobel Muhammad Yunus e ora vuole prendere il controllo della banca, così da silenziare il rivale politico. Questa appropriazione potrebbe segnare la fine della banca e distruggere la speranza di milioni di persone. Questo primo ministro, infatti, è stata coinvolta in una serie di scandali nel suo paese. Sì. Infatti da tempo la Grameen Bank è nell'occhio del ciclone, non perché non funzioni, anzi, controlla una rete di microprestiti per 955 milioni di dollari complessivi e a circa 8 milioni di poveri. Nella maggioranza dei casi si tratta di donne. I prestiti sono, è da notare che questi prestiti sono regolarmente ripagati, quindi piuttosto che la gallina dalle uova d'oro, direi che ha acceso la cupidigia del governo del Bangladesh. Più che il fisco dietro la decisione, secondo molti analisti, potrebbe esserci la politica. Infatti nel 2007, dopo un golpe militare, Yunus aveva parlato della possibilità di creare un suo movimento politico. Proprio così, Anna Maria, infatti si discute se Yunus debba essere reinsediato nel suo incarico. La premier in persona, quindi la premier Sheikh Hasina, vuole prendere il controllo della Grameen Bank e poiché ha dichiarato di ritenere che il microcredito succhi il sangue dei poveri, è facile immaginare che la Grameen cambierebbe ben presto il suo scopo sociale. In bilico, e la parola bilico è un eufemismo, anche l'intesa opera di intensa opera di educazione e prevenzione sanitaria che al momento rientra fra le attività e gli obiettivi di questa banca. Sembra che vi siano più possibili chiavi di lettura della notizia. La prima, la più ovvia, è che una donna potente, una delle poche nel mondo, che è anche assai criticata e anche coinvolta in svariati scandali, sta mettendo a rischio il futuro di milioni di altre donne. Una seconda ha invece a che fare più con il potere che con il genere. Yunus, infatti, grazie alla sua creatura, è l'uomo più popolare del Bangladesh e certamente tra i più noti e amati a livello internazionale. Quindi un avversario da stroncare per chi vuole mantenere il potere. Per chi si vuole mobilitare, in ogni caso, come accennato prima Rosanna, si può andare sul sito www.avaz.org. Benissimo, allora grazie Anna Maria di questa precisazione, quindi parleremo appunto fondamentalmente di questa, di questo microcredito, cioè del microcredito, diciamo, fondatore, che è quello di Muhammad Yunus, nel corso della trasmissione di questa sera. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sulla Radio Alma 101.9, ci ritroviamo fra pochissimi minuti e vi daremo quindi altre informazioni su questo argomento. A fra poco. Ed eccoci di nuovo su Radio Alma con la trasmissione I colori dell'anima. mentre sono, scusate, mi è scappato Umberto Tozzi. Allora, mentre sono le 21:12 di questo, che giorno è? 15 di ottobre 2012. Allora, questa trasmissione va in onda in diretta. Qualche volta, raramente, potrete ascoltare delle repliche, perché può capitare che qualcuno del gruppo dei Colori dell'Anima non può venire in radio e quindi abbiamo delle repliche di trasmissioni precedenti, ma nella maggior parte dei casi la trasmissione I Colori dell'Anima è in diretta. E ci alterniamo, siamo un gruppo di animatori, quindi ci sono Angelo e Carla, ci sono Ruland e Donatella, ci sono Barbara e Cristina e stasera invece ci sono Anna Maria e Rosanna. Benissimo, allora, prima di ritornare all'argomento della serata, che è quello del microcredito, volevo darvi qualche informazione, ma ve ne darò anche nel corso della trasmissione, perché ci piace anche dire le attività che sono in corso qui a Bruxelles, le attività, diciamo, culturali. Cominciamo con lo spettacolo teatrale Renzo e Lucia, che ci sarà il sabato 8 dicembre e la domenica 9 dicembre, dunque il sabato alle 20 e la domenica alle 17 al Beaux-Arts, nella sala studio. E si tratta di uno spettacolo realizzato dalla Bottega Magica e tra i vari attori, vabbè, ve ne dico qualcuno, non dico tutti, ci sono Alessandra Albasini, Manuela Alfè, Raffaella Battella, Ines Busnengo, eccetera, ve li ho detti in ordine alfabetico, comunque per la regia di Vito La Raspata e di Ortensia Semoli, quindi Renzo e Lucia. Per quanto riguarda i biglietti, si possono acquistare al Beaux-Arts, quindi si può andare al sito del Beaux-Arts, www.beausarts.be. Prego, Anna Maria. Torniamo al nostro argomento. Sì. Al microcredito. Allora, lo spunto della vicenda è ovviamente per noi una buona occasione per parlare un po' della Grameen Bank e del suo fondatore. L'idea del bengalese Muhammad Yunus, che è stato premio Nobel per la pace nel 2006, il fondatore per l'appunto, risale alla metà degli anni 70 ed è quella di finanziare con piccoli prestiti la povera gente ed in particolare le povere donne del suo paese, cioè il Bangladesh. A proposito del premio Nobel per la pace, vorremmo ricordare che questo prestigioso premio è stato riconosciuto all'Unione Europea proprio quest'anno per i suoi sforzi per l'avanzamento della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani. Complimenti a tutti gli europei, vorrei certo, dire. Complimenti, infatti, un bellissimo premio. Esattamente. Ora torniamo al nostro argomento, quindi al nostro Muhammad Yunus, professore di economia in Bangladesh negli anni 70, è considerato il banchiere dei poveri per eccellenza, cioè in qualche maniera realizza la distanza tra vita reale dei poveri e le teorie economiche. Lui infatti visita i villaggi e capisce il cuore del problema che affligge i poveri abitanti. Questi lavorano duramente per produrre oggetti che rivendono poi la stessa persona che gli ha anticipato i soldi e la materia prima. È sempre la stessa persona che magari decide i prezzi dei loro prodotti ed impedisce anche gli impedisce di guadagnare, quindi di migliorare in qualche maniera. Yunus infatti fa la conta del villaggio di Jobra, se leggo bene, che sono ben 42 persone che avrebbero bisogno di un credito per un totale, ascoltate bene, di $27. Sì, siamo comunque negli anni 70, sì. Vabbè, però. Certo. Ma comunque $27 certo, per 42 persone. Certo. E quindi lui glieli presta, all'inizio glieli presta, poi tenta con le banche e nessuna banca si fida. Si fa allora garante per un prestito e dà i soldi di nuovo ai poveri di Jobra che glieli restituiscono. E infatti oggi il padre del microcredito guida la Grameen Bank in numeri, tanto per capire, diamo qualche cifra, 6,5 milioni di prestiti erogati, di cui il 97% a donne, prestiti erogati tutti in Bangladesh. Annualmente vengono dati finanziamenti per circa 800 milioni. La media dei prestiti, quindi, anche oggi è piuttosto bassa, si aggira sui $130 e il 99% di questi prestiti, come diceva anche prima Anna Maria, sono ripagati. Tutti i soldi provengono da depositi e risorse interne del paese e il 67% dei depositi vengono da coloro ai quali i soldi sono stati prestati. Yunus, quindi il fondatore della banca, afferma che non ci sono garanzie, non ci sono referenze né strumenti legali, eppure funziona. Ed aggiunge: tutti sono imprenditori, molti non scopriranno mai il loro talento. Ogni anno vengono valutate le condizioni di povertà delle famiglie della Grameen Bank sulla base di 10 indicatori. In pratica vengono fatte alle famiglie 10 domande e se le risposte sono tutte 10 positive, allora la famiglia è fuori dalla povertà. Le domande sono ad esempio: avete un tetto solido sotto cui vivere? Bevete acqua potabile? Sì. Il 55% delle famiglie della Grameen Bank sono già uscite dalla povertà. Il Bangladesh nel suo complesso dal 1990 riduce la povertà ogni anno dell'1% e dal 2000 del 2% ogni anno addirittura. Per questo Yunus ha creato la Grameen Telecom per portare i cellulari nelle aree rurali. Oggi la Grameen ha 9 milioni di clienti. In Bangladesh il 70% della popolazione non ha energia elettrica, ma pensate, con l'energia solare il problema è stato risolto, poiché oggi ci sono più di 70.000 case con pannelli solari installati. Un buon esempio, direi. Yunus ha ricevuto il premio Nobel per la pace nell'ottobre del 2006, lo abbiamo già detto. Il comitato norvegese per il Nobel ha lodato Yunus e la sua banca per aver dimostrato che lo sviluppo economico e sociale dal basso può avere successo in molte nazioni povere. Bene, allora, questo quindi era soltanto, diciamo così, l'inizio di questa trasmissione, e che è basato quindi su dei numeri concreti che indicano come questa banca, appunto la banca dei poveri per eccellenza, come è chiamata, effettivamente funziona. E funziona perché, come dicevamo, questi prestiti vengono ridati indietro dal 97% delle donne, sono soprattutto. Esatto. Allora, io proporrei ancora un po' di musica. Volevo anche ricordarvi il nostro sito internet, che è radioalma.eu/i colori dell'anima, tutto attaccato, quindi radioalma.eu/i colori dell'anima, e il telefono, che è? Il telefono è lo 02 345 2656. Bene, allora, a fra pochissimo, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9. Allora, questo era Luigi Friotto, un cantante abruzzese, con la canzone composta da lui che si chiama Silenzi da un temporale. State ascoltando Radio Alma, i colori dell'anima, e sono le 21:25. Stiamo parlando di microcredito insieme ad Anna Maria. Però prima di ridare la parola ad Anna Maria, ancora un altro annuncio culturale. Mi dai permesso, Anna Maria? Assolutamente sì. Allora, questa volta invece parliamo di un gruppo che si chiama Cracker Brothers Jazz Quartet. E uno dei componenti di questo quartetto è il nostro Angelo Gregorio, che, come sapete, conduce anche lui i colori dell'anima, alternandoci appunto con altri animatori. Ebbene, Angelo Gregorio, insieme ad altre tre persone, in particolare insieme a Giuseppe Mautone, insieme a Christian Finzel e insieme a Roberto Ricci, Olivier Fanuel, sabato terrà un concerto presso un locale che si chiama Espasion Bruselas. L'ingresso è di 5 euro e l'indirizzo preciso è Chaussée d'Etterbeck 172, quindi Chaussée d'Etterbeck 172, ovviamente in città, a Bruxelles, e diciamo non molto lontano dalla Place Jourdan, per dare appunto un riferimento fisico. Comunque, appunto, questo gruppo eseguirà delle musiche, diciamo, di jazz, in chiave funky, alcuni di questi brani. Si tratta di, diciamo, tre Angelo, insieme ad altri due di questo gruppo, si conoscono ormai da 12 anni e ogni tanto, appunto, come in questo caso, quando si trovano tutti insieme nello stesso luogo, conducono fanno dei concerti praticamente, come in questo caso. Quindi vi invitiamo caldamente ad andare a questo concerto del Cracker Brothers Jazz Quartet il sabato 20 ottobre, ecco, questo non avevo detto, il sabato 20 ottobre presso Espacion Bruxelles, sulla Chaussée de Terbeck 172, e l'ingresso è di 5 euro. Allora, io ero un po' distratta perché abbiamo ricevuto una telefonata. Sì, una telefonata, ma non era proprio per noi. Non era per noi, va bene, non fa niente. Comunque, ma non ci siamo offese. No, non ci siamo. Va bene, d'accordo. Comunque, quindi era per la radio. Vi ricordiamo quindi che state ascoltando I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. E abbiamo anche degli ascoltatori molto attenti che ascoltano il numero di telefono. Quindi, esattamente. Quindi, vediamo se sono proprio stati tutti attenti. Qual è il principio di Yunus e quindi della Grameen Bank? Ecco. Il microcredito. Ecco, va bene. Adesso l'hai data tu la risposta. L'ho data io per evitare che magari qualcuno avesse perso qualche spezzone, certo, della trasmissione. No, torniamo al nostro argomento serio. Che è il microcredito, appunto. Esatto, quindi si tratta di uno strumento di sviluppo economico che permette alle persone in situazione di povertà e di emarginazione di avere accesso ai servizi finanziari. Allora, nei paesi in via di sviluppo milioni di famiglie vivono con il reddito delle loro piccole attività economiche rurali e urbane, nell'ambito di quella che è stata definita come economia informale. La difficoltà di accedere al prestito bancario a causa dell'inadeguatezza o assenza di garanzie reali e delle dimensioni delle microattività ritenute troppo ridotte dalle banche tradizionali non consente alle microimprese di svilupparsi o di liberarsi dai forti vincoli dell'usura. I programmi di microcredito propongono alternative soluzioni per queste microattività economiche, quindi parliamo di agricoltura, di allevamento, produzione, commercio, piccoli servizi. Quindi pianificando l'erogazione di piccoli prestiti a microimprenditori o gruppi di questi che hanno forte necessità di risorse finanziarie per avviare o sviluppare progetti di autoimpiego. E infatti l'incremento di reddito che ne deriva porta a migliorare le condizioni di vita dei loro nuclei familiari, determinando contemporaneamente un impatto significativo a livello comunitario. Avendo come target di riferimento i poveri, i programmi di microcredito molto spesso prevedono, oltre a servizi di carattere finanziario, anche una combinazione di servizi di supporto alla microimpresa, per esempio formazione tecnica e gestionale, creazione di reti commerciali, condizioni per la raccolta di risparmio. In modo più appropriato, questi programmi assumono la denominazione di progetti di microfinanza. Sì. Ed è interessante aggiungere che sull'esempio della Grameen Bank, che oggi è la quinta banca del Bangladesh, diverse organizzazioni non governative internazionali hanno adottato nel corso degli ultimi 20 anni programmi di microfinanza o microcredito, al fine di integrare progetti di intervento a sostegno dell'economia locale dei paesi in via di sviluppo. E così si sono attivate, vediamo se lo leggo correttamente, Action International, Care International, Finca International, ACODEP. In questi anni si sono sperimentati differenti programmi di microfinanza e microcredito, abbiamo detto, a seconda delle caratteristiche del contesto sociale, dove la cultura, l'economia, la dimensione, la tipologia di società influiscono nella vita del paese. Non si possono definire specifiche regole nella realizzazione dei programmi di sviluppo economico, in particolare utilizzando lo strumento del microcredito, e non vi è una disciplina che dia indicazioni precise. Bene, allora io direi di interrompere qui, di fare ancora una piccola pausa con un altro brano musicale e poi quindi continueremo a parlare di Mohamed Yunus della Grameen Bank e naturalmente di tutto quello che poi ne è anche venuto fuori, ricordando appunto che in questi giorni c'è una petizione sul sito www.avaaz.org, Avaaz con due A, E questa petizione appunto serve per sostenere la presenza dello stesso Yunus, che è il fondatore di questa banca, come amministratore delegato, perché appunto sembra che il primo ministro del Bangladesh voglia cacciarlo. Allora, ancora un brano musicale, come dicevamo, e ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. E questo era lo stacchetto musicale dei Colori dell'Anima, che è stato realizzato da Angelo e Carla, che salutiamo, e li salutiamo anche perché la telefonata che abbiamo ricevuto prima era di un radioascoltatore che voleva salutare loro, quindi Angelo e Carla. E io prendo l'occasione quindi di questa telefonata intanto per salutare questo radioascoltatore, ma appunto stasera in radio ci siamo Anna Maria e Rosanna, che quindi stiamo parlando del microcredito, e per ricordare, come dicevo prima perché ero un po' distratta, che il sabato 20 ottobre, quindi questo sabato, ci sarà un concerto di un gruppo che si chiama Cracker Brothers Quartet Jazz, ed è un gruppo nel quale suona, tra gli altri, appunto proprio Angelo. Quindi questo concerto si terrà presso la Espansion Bruselas il 20 ottobre alle ore 20, e l'indirizzo è Chaussée de Terbeck 172. È un gruppo che esegue musica jazz fusion, quindi vi invitiamo a partecipare a questo concerto. Allora, ritorniamo al microcredito e diciamo, da quella che è stata all'origine l'iniziativa di Muhammad Yunus, ci sono state poi successivamente molte iniziative che rientrano quindi in questo concetto di microcredito. In Italia, in varie regioni, si parla di finanza etica, che rappresenta una concezione nuova di economia basata sulla sostenibilità del mercato e della finanza. Dirigere gli investimenti per sostenere organizzazioni ed imprese che lavorano nel campo dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, dei servizi sociali, della cultura, della cooperazione internazionale. In pratica, in questi casi abbiamo visto che quando parliamo di microcredito nella Grameen Bank si parla di somme di circa 130 euro di prestito. Qui parliamo comunque di qualche migliaio di euro, quindi il concetto ovviamente è un po' diverso. Con il sostegno del microcredito, inoltre, realizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale che è generalmente esclusa dal finanziamento tradizionale delle banche o delle società finanziarie per le piccole dimensioni e soprattutto per la mancanza di garanzie, questo sostegno diventa concreto per chiunque. Infatti, Rosanna, in Europa e in Italia gli esempi di microcredito si rifanno alle esperienze di finanza etica. Negli anni 70 in Italia si costituiscono le MAG, mutue autogestione, che raccolgono risparmio dai soci per utilizzarlo a favore dei progetti nell'ambito dell'economia sociale e della cooperazione internazionale. Numerose ONG italiane hanno poi adottato lo strumento del microcredito nei loro programmi di sviluppo, ritenendolo un importante mezzo per la ridefinizione delle politiche di sviluppo economico. E oltre all'erogazione di servizi finanziari di credito e risparmio, l'istituzione di microfinanza può supportare lo sviluppo delle micro o piccole attività economiche anche attraverso l'erogazione di servizi di formazione e assistenza tecnica, come abbiamo già detto prima, e cioè come si fa appunto all'interno della Grameen Bank. Se è vero che il credito è uno strumento in grado di aumentare gli investimenti produttivi, è altrettanto vero che una buona gestione dell'attività può migliorare l'efficienza, ad esempio l'introduzione di nuove tecnologie per incrementare la produttività delle micro piccole attività economiche. Proprio così. Il target servito dal microcredito è solitamente costituito da microimprenditori, ovvero persone che svolgono attività produttive anche molto piccole e limitate, ma che hanno notevoli opportunità di svilupparsi se assistiti con dei servizi finanziari specifici. Dislocate tanto nelle aree urbane come in quelle rurali dei paesi in via di sviluppo, queste attività sono di commercio, di servizi, produzione agricola, artigianale, tutto su piccola scala. In molti casi vengono coinvolti familiari e pochi altri dipendenti, in piccole attività orientate al sostentamento dell'economia familiare. Le entrate sono per lo più rivolte al miglioramento delle condizioni di vita della famiglia e solo in qualche caso le imprese più avviate sono indirizzate al reinvestimento nell'attività produttiva e nel miglioramento del luogo di lavoro. I beneficiari di molti programmi di microcredito sono delle donne. Si cerca in questo modo di migliorare la loro condizione e coinvolgimento nelle attività economiche e quindi il loro ruolo all'interno della comunità, anche perché esse hanno dimostrato in diversi casi una migliore gestione dell'economia familiare, e questo lo sappiamo, e dell'educazione dei figli. Certo, lo sappiamo. Le donne inoltre si sono rilevate molto più affidabili degli uomini quanto a gestione dei crediti e restituzione delle quote. E magari se qualcuno ha qualcosa da dire, noi siamo qui. Siamo qui a rispondere. Allora, vabbè, insomma, non lo diciamo così solo perché siamo donne, ma lo diciamo basandoci sui fatti reali. Appunto, un esempio è la Grameen Bank, come abbiamo visto, dove il 97% sono donne, e tutte queste donne riescono a ridare fino al 99% di quello che hanno chiesto, quindi è una somma veramente importante. Allora, io proporrei di continuare con un po' di musica. Naturalmente vi ricordo che siete all'ascolto dei Colori dell'Anima. Resteremo con voi fino alle 22, ora sono già le 21:42, quindi non manca moltissimo, ma rimanete sintonizzati perché vi facciamo ascoltare un po' di musica, e a tra poco. Ed eccoci di nuovo qua a parlare di microcredito. Vediamo adesso il ruolo del microcredito nei programmi della lotta alla povertà. Il cambiamento di prospettiva nei programmi di aiuto allo sviluppo, dalla donazione al credito. La metodologia del microcredito rivoluziona il modo di pensare l'aiuto allo sviluppo nei programmi di cooperazione internazionale. Si tratta infatti di uno strumento che stimola l'attività produttiva e la dignità delle persone, a cui viene data una possibilità di crescita che non viene regalata, ma prestata. Si abbandona in questo senso la logica del puro dono, che tanti danni ha spesso recato, quanto a conseguenze di forzati programmi assistenziali e di creazione di meccanismi di dipendenza. E infatti quella che viene riconosciuta è la fiducia nella possibilità della persona. Il credito, prima ancora che monetario, è fiducia al microimprenditore e al suo progetto. Lo sviluppo economico viene sostenuto in questo caso attraverso la responsabilizzazione dei microimprenditori come protagonisti e fautori della propria crescita. Coloro che ricevono un prestito sono spinti a lavorare duramente per restituirlo. Per loro è un'occasione che, se fallisce, non si ripeterà facilmente. Il tentativo di ogni progetto di microfinanza o microcredito è quello di creare le condizioni di sostenibilità dei programmi e delle istituzioni che ne prendono parte, ovvero la piena indipendenza operativa da interventi finanziari esterni, e la creazione quindi delle condizioni per una continua e duratura operatività. Nei paesi in via di sviluppo risulta molto importante il contributo che l'economia informale dà allo sviluppo economico nazionale. Le attività sommerse, non riconosciute, di piccoli contadini, artigiani, commercianti, tentano di sopravvivere all'economia dell'esclusione. Le microimprese si presentano come fulcro della crescita del benessere delle comunità locali, oltre che la principale fonte di reddito per milioni di persone. Le attività di queste diverse microimprese, con i loro progetti di riscatto economico-sociale, possono nel loro insieme arrivare a rappresentare fino al 50% di alcune economie nazionali. Come abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, lo strumento del microcredito nasce in Bangladesh, non solo come puro strumento finanziario, ma anche come l'intento di sostenere legami e vincoli più forti all'interno delle comunità locali, in quanto la partecipazione allo sviluppo economico è collettiva. La tipologia del credito ai gruppi evidenzia proprio questa necessità di coesione sociale, perché crea dei forti vincoli di pressione all'interno dei gruppi, relativamente alle quote da rimborsare, nonché una forte solidarietà e aiuto comunitario di fronte alle difficoltà di pagamento. Anche oggi e in diverse parti del sud del mondo, molti programmi di microcredito puntano allo sviluppo partecipando attraverso metodologie bottom-up, che puntano cioè dal basso verso l'alto, privilegiando gli interessi della comunità nel suo insieme. Ci fai ascoltare un po' di musica, Rosanna? Esattamente, stavo preparando appunto un brano musicale. Sì, mi hai visto che eri distratta, che ero distratta. No. Allora, mi hai visto che ero distratta, ecco, diciamo correttamente. E questa volta vi propongo Ornella Vanoni, naturalmente ancora per qualche minuto, perché poi ritorneremo in studio per i saluti, ma anche per concludere questa trasmissione di oggi che, come abbiamo detto, è stata dedicata al microcredito. A fra pochi minuti. E questa era Ornella Vanoni, mentre state ascoltando I colori dell'anima. Prima di ritornare e concludere quindi con il microcredito, volevo solo dare altre due informazioni sempre di tipo culturale. Uno riguarda una serata dedicata a Rita Levi Montalcini, il 24 ottobre 2012 alle ore 19, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Rita Levi Montalcini, una vita tra scienza e solidarietà, conferenza organizzata dall'Associazione Piemontesi Belgio. E poi tenete presente che c'è il Cinema Italia, il festival che presenterà dal 9 al 17 novembre 7 film italiani, e tra questi ne cito solo due, il 9 novembre Magnifica presenza di Ferzan Özpetek e il 17 novembre Io sono lì di Andrea Segre. Allora, dunque abbiamo parlato di microcredito, ma volevo accennare brevemente ad un'altra iniziativa che si è realizzata in Romania, nel paese di Viscri, con un progetto che si chiama Calze di lana di Viscri. Questo paese era un paese abitato da rumeni, se non che c'è stata una grande diminuzione della popolazione perché la gente è immigrata in massa. Allora le case sono rimaste vuote e sono state occupate da gitani, da rom. Nel 99 a due abitanti è venuta l'idea di un vero e proprio baratto, cioè calze e altri lavori fatti con lana in cambio di olio, zucchero, pane e altre derrate alimentari. Mentre con il passare del tempo il progetto coinvolse oltre 100 donne di Viscri. In pratica gli abitanti di etnia rom si sono messi a lavorare il ferro, altri hanno iniziato con la produzione di mattoni e tegole tradizionali, e attorno al progetto si è realizzato un sistema che ha permesso quindi a questi abitanti di diventare indipendenti economicamente. Allora, Anna Maria, abbiamo parlato di microcredito, vogliamo dare qualche indicazione di qualche testo, sì, magari, sì, di qualche libro? Se qualcuno volesse un pochino approfondire l'argomento, io voglio far presente che ci sono alcuni testi. Uno è Il banchiere dei poveri, che è di Muhammad Yunus, editore Feltrinelli. Poi abbiamo Microcredito, Banca Etica, Capitale Sociale Mezzogiorno, che è curato da Galatei, edito dall'Ancora del Mediterraneo nel 2006. Questo tratta di uno studio socio-economico sullo sviluppo territoriale di aree in cui l'accesso al credito per la creazione di impresa ha dei parametri troppo alti per la maggior parte della popolazione. La caratteristica principale di questo nuovo modello economico e finanziario, cioè il microcredito, è la sinergia fra i vari attori socio-territoriali e la Banca Popolare Etica, un istituto di credito che ha rivoluzionato gli standard di accesso al credito da parte dei singoli cittadini, in particolare nel sud dell'Italia. Cominciare da piccolo, fornire piccoli crediti per piccole attività a condizioni vantaggiose, creando un circuito virtuoso che si sostituisca alla rete dell'usura, dia respiro allo stesso tempo, inneschi un indotto a catena su tutti i sistemi sociali. Sì, e io volevo citare brevemente altri due libri, uno che si chiama Verso un nuovo capitalismo di Gianfranco La Grassa, edito da Unicopli nel 2007, e per finire un altro libro, Un mondo senza povertà, scritto appunto dal fondatore della Grameen Bank, Muhammad Yunus, edito da Feltrinelli, un libro scritto tra il 2008 e il 2010, quindi diciamo relativamente recente, e dove Yunus propone quindi l'esperienza della nascita del sistema del microcredito come un modello e un punto di partenza per riuscire finalmente a estirpare la piaga della povertà mondiale. Allora, e con questo direi che è veramente tutto per oggi. Io vorrei ringraziare te, Anna Maria. E io ringrazio te, Rosanna. E ovviamente insieme ringraziamo tutti i radioascoltatori. Tutti gli ascoltatori. Non abbiamo detto il colore, lo vogliamo dire adesso di questa trasmissione di oggi? Sì, Mi viene in mente un bel colore acceso come il fucsia. Non mi vengono in mente questi abiti colorati che ci sono In nel Bangladesh, sì, Bangladesh. mi sembra proprio Esatto. un bel colore molto appropriato. Trovo che sono abiti che danno alle persone grande dignità, Certo. nonostante siano poverissimi, abbiano delle situazioni non proprio ideali, rimangono Certo. sempre estremamente degni. Grazie, è un bel suggerimento. Grazie ancora a tutti i radioascoltatori e voi ogni lunedì ascoltate Colori dell'Anima, quindi troverete sempre degli animatori diversi, ma che saranno in vostra compagnia e buonasera a tutti. Buonasera.